Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È il 6 giugno del 1977. A Londra, capitale della Gran Bretagna e del Commonwealth inglese, hanno inizio i festeggiamenti per il giubileo d'argento della regina Elisabetta. 25 anni di regno. Davanti al castello dei Windsor è la stessa sovrana ad accendere un imponente falò, preludio a un sontuoso spettacolo pirotecnico. Questi 25 anni hanno portato grandi cambiamenti per l'Inghilterra. Grazie alla nostra tolleranza e alla nostra comprensione, l'impero si è trasformato in una confederazione di 36 nazioni indipendenti, lungo tutti i 5 continenti. Lontani dall'imperialismo, ci stiamo ritagliando un ruolo centrale nelle relazioni con gli altri paesi del mondo. Il giubileo d'argento di Elisabetta è iniziato già nei primi giorni dell'anno, con feste e celebrazioni in tutto il Commonwealth. La regina parte con il marito, il principe Filippo, per un lungo viaggio in tutte le 36 nazioni dell'ex impero. Il 1977 è un anno tranquillo per il Regno Unito. L'inflazione è in discesa, le tensioni sociali dei primi anni 70 sembrano in parte sopite. I festeggiamenti per il giubileo d'argento celebrano il ritrovato amore tra la corona e i suoi sudditi. Il Liverpool vince il suo 10° campionato di calcio, il primo in cui vengono introdotti i cartellini giallo e rosso a indicare ammonizioni ed espulsioni. Due sudditi di Sua Maestà si aggiudicano due premi Nobel, James Medd per l'economia e Neville Francis Mott per la fisica. Insomma, almeno esteriormente, tutto sembra funzionare nel migliore dei modi, anche nella musica. Superficialmente, il 68 e le contestazioni giovanili dell'inizio del decennio sembrano definitivamente superate. Sotto la cenere del puritanesimo tutto britannico, cova un fuoco sacro destinato ad esplodere. L'ondata di proteste sessantottina in Inghilterra ha avuto una temperatura più blanda, più tenue. La psichedelia, il rock, gli studenti nelle piazze, i viaggi lisergici e gli hippie non sono fenomeni che hanno lasciato un segno così profondo come in altri paesi del mondo. Qui però, nel regno dell'impettito conformismo british, questi semi germoglieranno con un po' di ritardo, generando un fenomeno di costume destinato ad attecchire in tutto il mondo, il punk. Il punk rock in realtà era nato negli States, sulla East Coast prima e poi con i Ramones, ma è diventato grande solo qui, in Inghilterra. Non c'era solo la musica, era un modo di esprimere uno stato d'animo collettivo, era un mix di rabbia e di voglia di scioccare. Le parole che avete sentito appartengono a Glenn Matlock, un musicista inglese che nel 1973 viene reclutato da un giovane aspirante cantante, Glenn Jones, per entrare a far parte di un gruppo, The Strengths. Un gruppo che suona nelle cantine di Londra una musica rozza, grezza, istintiva, ispirandosi a gruppi come i primi Rolling Stones o i Kings. A Destini Incrociati siamo nella Londra degli anni 70. Un giovane manager, Malcolm McLaren, e la sua compagna, Vivian Westwood, stanno scrivendo una pagina di storia del costume che sconvolgerà la moda e la musica. I The Strengths hanno poche idee e scarso talento, ma anche un grandissimo colpo di fortuna, tutta concentrata in un incontro, quello con Malcolm McLaren. Malcolm McLaren nel 1973 ha 27 anni. Dal 68, trascorso a Parigi, immerso nelle contestazioni studentesche, ha aderito al movimento situazionista, un atteggiamento codificato di ribellione continua portata avanti attraverso gesti e manifestazioni di irriverente anticonformismo. McLaren ha due intuizioni: trasformare questo pensiero in tendenze musicali di successo, trasportarlo poi nella moda e farne un fenomeno di costume. Assecondando la prima di queste, si mette a fare il manager. Io appartenevo ad un'altra generazione rispetto alla gente che gestivo. Appartenevo alla generazione degli anni 60. Ho tentato di fondere elementi che appartenevano al mio modo di pensare, come l'angoscia esistenziale, l'aspetto grezzo e fai da te del rock and roll, con la rabbia di quella generazione di giovani che vivevano con frustrazione l'idea che nella vita non si potesse ormai fare nulla senza un sacco di soldi. McLaren inizia la sua carriera di manager con i New York Dolls, una band americana che si scioglie però dopo pochissimo tempo. Quindi cerca di promuovere The Strands, stravolgendone la formazione. Obbliga Jones a suonare la chitarra e davanti al microfono mette John Joseph Lydon, meglio noto come Johnny Rotten. Il nome del gruppo viene cambiato in Sex Pistols. Nel 1976 la band incide i primi brani e inizia a portarli in giro per i club londinesi, in show incendiari e provocatori. Senza saperlo, Rotten e compagni hanno iniziato a cambiare la storia del rock e della musica, per incidere in profondità sulla storia del costume, divenendo l'anima nera di quella stessa Inghilterra che si prepara a celebrare il giubileo della regina. McLaren e i suoi Pistols, però, avranno bisogno di un altro destino incrociato per lasciare davvero il segno. Un destino incrociato che scopriremo tra poco. Di certo, se in quel 1976 inizia ad esplodere il fenomeno Sex Pistols, almeno metà del merito è di un incrocio di destini senza il quale questa avventura non avrebbe avuto una simile forza. La figura che cambia il destino dei Sex Pistols e di McLaren e che dalle folli scorribande dei Pistols trae a sua volta un cambiamento determinante è una donna. E ha tutta l'irriverenza di una mente brillante, acuta, penetrante, in grado di mettere a soqquadro la società con una semplice intuizione. Stiamo parlando di Vivian Westwood. Vivian Westwood. I didn't want to be a fashion designer. In realtà non avevo mai pensato di diventare fashion designer. È successo perché mi ci ha coinvolto quello che allora era il mio ragazzo, Malcolm McLaren. Abbiamo iniziato insieme all'inizio degli anni 70, ma sicuramente la situazione è cambiata quando Malcolm ha cominciato a gestire i Sex Pistols, e in particolare nell'anno del giubileo d'argento. Vivian Isabel Swire nasce nel 1941 in Inghilterra. Acquisisce il cognome con cui è diventata famosa solo dopo il matrimonio con Derek Westwood, che le porta anche un figlio. Il matrimonio ha durata breve. Così nel 1971 Vivian inizia una relazione con Malcolm McLaren, il quale ha appena aperto il Let It Rock, un negozio di vinili e gadget dedicati a rock band degli anni 50 e 60. Il negozio si affaccia su una delle vie più celebri di Londra, King's Road. Qui Vivian, che per gioco si è sempre dilettata con il design di abiti strani e con accostamenti surreali e provocatori, inizia a disegnare vestiti da Teddy Boy. Progressivamente osa sempre di più con le sue sperimentazioni. Ha inizio uno stile destinato a lasciare il segno. Il negozio aveva una sorta di tenda interamente nera che copriva la vetrina, col nome scritto in lettere rosa. Facevamo abiti su misura, poi c'erano pantaloni attillati in jeans e in pelle e scarpe con la suola altissima chiamate Brothel Creepers. Grazie alle straordinarie creazioni di Vivian, il Let It Rock viene notato dalla stampa internazionale. Vengono pubblicati articoli anche sulla rivista Rolling Stone. Nel suo punto di forza, comunque, il Let It Rock rispecchia l'elemento peculiare della sensibilità della Westwood, la capacità di reinventarsi continuamente e di cambiare direzione. Così, nel 1972, arriva il primo cambio di nome, Too Fast for Live, Too Young to Die. Nel 1974 la chiusura strategica e temporanea. Poco dopo la riapertura con un nuovo nome, Sex. La gente era stanca della moda degli hippie, voleva qualcosa di nuovo. Insieme a questo però c'era una sorta di nostalgia delle mode del passato. La nostra trasgressione fu di prendere elementi provenienti da passati diversi e assemblarli tra loro. Poi arrivarono i Sex Pistols. Con l'ascesa dei Sex Pistols, musica e moda si fondono in una sola esperienza estetica, orchestrata dalla sapienza della Westwood. Le creste colorate, le borchie, i pantaloni attillati, le provocazioni come la svastica esibita su una maglietta e trasformata in un discutibile simbolo anarchico di contestazione, sono creazioni incontenibili della Westwood. Tutto fa discutere, tutto segna nuove frontiere, tutto avviene all'insegna del riuso, in un'ottica sfrontatamente post-industriale. Come la maglietta dei Pink Floyd fatta indossare a Rotten con l'aggiunta dell'affermazione I hate sopra a esprimere il disprezzo per la band di Roger Waters, troppo composta, aristocratica, che proprio in quegli anni però si impone con forza in tutto il mondo. Le note dei Pink Floyd sono lontanissime dalla rabbia sguaiata dei Sex Pistols. La band di Rotten diventa fenomeno di costume, anche e soprattutto perché Vivian Westwood ne cura il look. L'apice del sodalizio è proprio il 1977, l'anno del giubileo. Mentre i sudditi di Sua Maestà festeggiano per le strade di Londra, si materializza l'anti-giubileo pensato da McLaren e dalla Westwood. I Pistols stanno suonando su una chiatta sul Tamigi. Suonano God Save the Queen. L'idea di questa provocazione? Naturalmente di Malcolm McLaren e di Vivian Westwood. Interviene la polizia. I musicisti, i tecnici, McLaren e la Westwood vengono arrestati. È il momento di massima celebrità per il gruppo, che inizia la sua parabola discendente. Per la Westwood, in qualche modo, è la consacrazione. La fusione di elementi sadomaso come borchie, spille da balia, lacci, catene, manette, con accessori e tessuti vintage come velluto e tartan, corsetti, gilet, spiazzano l'opinione pubblica, diventano un linguaggio cui nessuno sa trovare una risposta adeguata. Il contenuto di questo messaggio? Il provocatorio No Future, niente futuro, urlato da Rotten. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati si trova a Londra, il 6 giugno 1977. Sono i giorni dei festeggiamenti ufficiali per il giubileo d'argento della regina Elisabetta. Tra le manifestazioni di gioia e d'amore per la corona, un gruppo di giovani agghindati in maniera bizzarra esprime il proprio dissenso e apre una voragine nella controcultura britannica. Sono i Sex Pistols e quella che sentite è la voce del loro leader, l'istrionico John Lydon, alias Johnny Rotten. La sua voce è cantilenante e sfruttata per interpretazioni rabbiose, unita alla sua presenza scenica oltraggiosa, provocatoria, trasformano i live show dei Pistols in vere e proprie performance di arte neo-espressionistica. Probabilmente non era un grande cantante e in effetti all'inizio gli altri componenti della band non lo volevano. Però questo ragazzo con la cresta, i capelli di colori improponibili, era sfacciato, irriverente, era quello che ci voleva per costruire la band. Completata la formazione, procede la costruzione a tavolino del fenomeno Sex Pistols da parte del cacciatore di tendenze McLaren, ma soprattutto da parte di Vivian Westwood. Nell'ottobre 1976 il gruppo entra in studio per registrare alcune demo. Tra i pezzi, la celeberrima Anarchy in the UK. Nello stesso mese del 76, il gruppo firma un contratto con la EMI. Nata in ambienti underground e in angusti locali, la musica dei Sex Pistols si prepara a conquistare il mercato internazionale e a diventare il nuovo fenomeno musicale. Nello stesso periodo, i quattro cominciano a entrare sempre più in contatto con i media. Tanto più questi si schierano contro il gruppo, tanto più quest'ultimo ne trae vantaggi. Un mese dopo, nonostante le buone vendite di Anarchy in the UK, la EMI decide di liquidare la formazione per non rischiare di finire anch'essa sul banco degli imputati, dopo una clamorosa rissa all'aeroporto londinese di Heathrow. Dopo una breve parentesi con la A&M Records, sarebbero approdati alla neonata Virgin. Siamo tornati al 1977, l'anno del giubileo. Sotto la crosta del puritanesimo regale, del perbenismo di facciata, pulsa questo cuore nero, rabbioso, anarchico. Se il Regno Unito celebra con i fasti del Giubileo la gloria effimera di uno status quo miope e ingannevole, nel biennio successivo questa inquietudine esploderà nella recrudescenza della guerra irlandese dell'IRA. E continuerà nei prodromi della guerra con l'Argentina alle Falklands. Per fermarsi con l'avvento della Lady di Ferro, Margaret Thatcher, campionessa del conservatorismo e della restaurazione. The ladies not for turning. Non è quindi un caso se proprio in quel 1977 esplode, soprattutto a livello mediatico, la rivoluzione punk. In quell'anno Glenn Matlock abbandona la formazione. Il suo posto viene preso da un bassista inventato, Sid Vicious, che non ha mai preso in mano in vita sua un basso elettrico e che in molti show suonerà con il volume dell'amplificatore a zero. Ma è un personaggio, fa scena e ha grande carica. In questa messa in scena teatrale e sfrontata, ad essere assenti o presenti per negazione sono molti elementi della cultura anni 60, ossia tutto ciò che era filosofia hippie, Woodstock, rock progressivo, peace and love, Beatlemania. Così il regalo della band alla regina, God Save the Queen, finisce per assumere per negazione la portata di un inno generazionale. In quel 1977 cambiano definitivamente le vite dei Sex Pistols, di Malcolm McLaren e soprattutto di Vivian Westwood, che aveva curato l'elemento determinante delle provocazioni dei Sex Pistols, quello estetico, dando inizio allo stesso tempo a uno stile inconfondibile. A Londra la gente parla dei Pistols, visita il negozio di McLaren, chiede a Vivian di disegnare abiti stravaganti e provocatori. Si è imposto uno stile. Come spesso accade, il punto più alto sullo sfondo di un evento unico, in questo caso il Giubileo d'Argento, segna anche un momento di rottura, di divisione. La figura estrema di Sid Vicious comincia a diventare ingombrante. Vivian e McLaren rompono e la Westwood decide di proseguire da sola. Il 1977 è anche l'anno in cui muore Elvis, il simbolo del rock and roll, sipario simbolico che cala su un'intera generazione di ribelli. Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati racconta l'intreccio delle vite di Vivian Westwood e dei Sex Pistols, sullo sfondo del Giubileo d'Argento della Regina Elisabetta, nel 1977. In quell'occasione il legame tra i Pistols e la futura stilista viene consacrato da un gesto sfrontato, punzecchiare i festeggiamenti ufficiali con l'esecuzione, su una chiatta sul Tamigi, di God Save the Queen, l'anti-inno inglese, scritto da Glenn Matlock e Johnny Rotten. Il risultato immediato? L'arresto di tutte le persone coinvolte. La polizia ha bloccato quell'evento, ma Anarchy in the UK era comunque al primo posto delle classifiche nazionali, proprio in quella settimana. Era quello il segno del nostro successo. In effetti, il singolo di God Save the Queen, proprio in quelle settimane, sale in cima alle classifiche britanniche, anche se per preciso mandato governativo alcune emittenti sono costrette ad annunciarlo solo al secondo posto. Poco importa. Da quell'evento, le storie dei Pistols e della Westwood si dividono progressivamente, anche e soprattutto nella sorte. Per la band arriva il primo album, registrato per la Virgin, Never Mind the Bollocks. Un discreto successo, recensito positivamente dalla mitica rivista Rolling Stone. Il sound dei Sex Pistols è simile a due treni sotterranei che si scontrano sotto 40 piedi di fango e con le vittime che urlano. Le canzoni sono cantate con un'energia e una convinzione che sono positivi nella loro pazzia. Internamente, però, la già precaria armonia della band è vicina all'esplosione. Proprio il successo e la fama la divorano. Soprattutto Sid Vicious, a causa dell'incontro e del fidanzamento con Nancy Spungen, veleggia verso la completa autodistruzione, a colpi di eroina e altre sostanze. Al disco segue comunque un tour, che porta però allo scioglimento della band. Rotten, infatti, è progressivamente sempre più disgustato dal comportamento di Vicious. Il bassista, dal canto suo, per tutta la tournée, subisce molti ricoveri per crisi d'astinenza da eroina e per atti di autolesionismo. Inoltre aggredisce spettatori, roadie, tecnici, in un'inarrestabile spirale autodistruttiva. Vivian Westwood ha incontrato Sid al negozio. I primi ricordi che ha di lui sono molto diversi dalle immagini dissolute legate al tour. Quando avevo conosciuto Sid, era un ragazzo tutto sommato pulito. Abbiamo anche avuto una storia. I primi eccessi facevano parte del suo temperamento, erano sotto controllo. Purtroppo aveva un lato ingenuo, quello che ha permesso a Nancy di trascinarlo all'inferno. Johnny Rotten non ha dubbi, invece, circa le responsabilità della discesa agli inferi di Sid Vicious. Abbiamo fatto di tutto per allontanare Nancy. Lo stava uccidendo. Ero assolutamente convinto che lei si volesse uccidere. Solo non voleva farlo da sola. Voleva portare Sid con sé. 14 gennaio del 1978, San Francisco. Va in scena quella che si rivelerà essere l'ultima data dei Pistols. Rotten decide di chiudere il concerto con No Fun, una cover degli Stooges. Schernendo il pubblico afferma: This is no fun. Significa: questo non è per niente divertimento. Al termine del pezzo, il cantante dirà invece: Have I get the feeling you've been cheated? Avete mai avuto l'impressione di essere stati imbrogliati? Poi getta a terra il microfono ed esce dal palco. Un mese dopo i Sex Pistols si sciolgono. Nancy viene trovata morta nel bagno del suo appartamento, accoltellata. Vicious viene arrestato, poi rilasciato e si suicida con un overdose di eroina. Il mito punk tramonta schiacciato da se stesso. L'estetica punk, quella invece no, non muore. Lo spirito di ribellione, sapientemente mescolato con una buona dose di calcolo a tavolino, sopravvive nelle note di altre band, ma soprattutto nelle mode e nei trend imposti da Vivienne Westwood. Sul piano sociale, infatti, il punk viene neutralizzato dal conservatorismo thatcheriano. Ma a livello controculturale, il look neoromantico della leggendaria collezione Pirati della Westwood, la sua prima dopo la separazione da McLaren, datata 1982, insieme alla musica dei Queen, ironicamente ispirati già dal nome alla corona inglese, portano avanti un'ironica protesta contro il conformismo dei reali e la politica della Lady di Ferro. Gli abiti di Vivienne fanno tendenza. Negozi con il suo marchio aprono in tutto il mondo. Il nome del centro vendite londinese cambia in World's End, a segnare la fine del No Future Punk. La relazione con Keith Haring, il graffitaro per definizione, la proietta nell'Olimpo delle icone pop. Ho sempre tentato di andare più veloce del sistema. La gente ha bisogno dei vestiti, sono un elemento del tutto naturale della società. E proprio per questo ci si può lavorare con attenzione per cercare di indirizzare le mode, crearle e indicare nuovi percorsi. È il lato sociale della moda, penso, vissuto nel migliore dei modi. Per un decennio, tra sfilate e collezioni, la sua fama si consolida in tutto il mondo. Nel 1992, la sua consacrazione chiude il cerchio in maniera assolutamente surreale. La sua fama è ormai tale che la stessa regina Elisabetta, dimenticando l'affronto di God Save the Queen, nel 92 riconosce alla stilista l'onorificenza Order of British Empire. Ma proprio al termine di quella cerimonia, in odore di armistizio, Vivienne fa volteggiare la gonna davanti agli obiettivi dei fotografi, svelando al mondo che non porta biancheria intima. Mai, come precisa pubblicamente, rincarando la provocazione. È la chiusura dell'incrocio di destini tra la grande stilista inglese, la punk band più famosa del pianeta, e la corona inglese. Un incrocio anarchico, fatto di provocazioni calcolate, di eccessi, che sfuggono al controllo degli stessi protagonisti, di dettagli elementari. Al termine dei 90, anche ai Sex Pistols viene riconosciuto un posto nella storia, con l'invito a far parte della Rock Hall of Fame. In tutta risposta, Rotten fa pervenire una lettera al museo, battagliera come un tempo, preludio a una reunion della band qualche anno dopo. Segno che forse c'è ancora spazio per la protesta ed è ancora tempo di anarchia. La lettera è scritta a mano da Rotten, di getto. La calligrafia disordinata, caotica, è il simbolo dell'antica rabbia che ancora ruggisce nello spirito del cantante. Per lo stile che i Sex Pistols rappresentano, la Hall of Fame è una macchia di piscio sulla reputazione. L'Hall of Fame è il vostro museo. Accostarci a quel museo equivale a mischiare piscio nel vino. Noi non verremo alla cerimonia. Noi non siamo asserviti a voi. E quindi perché ci avete nominati? And now the end is near, and so I face